Riflessi d'oltre tenere. Una buona domenica da Katia Caramelli. Il 19 aprile del 2005 veniva eletto al soglio pontificio Josef Ratzinger con il nome di Benedetto XVI. Abbiamo chiesto a Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto, di tracciare un bilancio di questi 5 anni di pontificato, segnato negli ultimi mesi dallo scandalo pedofilia. Siamo di fronte a un grande catecheta, testimone della fede, che cerca di approfondirla e di presentarla con tenacia e con fedeltà agli uomini e alle donne del nostro tempo. Il cristianesimo è anzitutto l'annuncio di un messaggio, e questo Papa ha la grande capacità di presentare anche gli aspetti più complessi di questo messaggio in una maniera semplice e profonda. Basta pensare alle sue catechesi o alle sue omelie. Questo aspetto, da una parte, lo rende caro ai credenti. Come si dice, molti vanno a Roma per ascoltare questo Papa, così come altri dicevano nel passato spesso si andava per vedere il Papa. In realtà questo Papa lo si ascolta più che vederlo. Non è un Papa che ha particolari capacità comunicative dal punto di vista spettacolare. Questo aspetto si congiunge alla sua passione per la causa di Dio in questo mondo, e cioè alla sua testimonianza della verità di Dio come senso della storia e come orizzonte di speranza per le donne e gli uomini di questa modernità liquida, senza appigli e senza riferimenti. Naturalmente proprio questi aspetti possono suscitare in chi non crede, soprattutto in chi rifiuta ogni idea di verità, una sorta di paura o di diffidenza, perché siamo di fronte a un testimone molto convinto. Questo Papa cerca un punto di incontro con il pensiero laico, religioso, non cristiano, a partire proprio dall'uso del logos, della ragione. Questo lo rende vicino e sensibile e apprezzato da tanti, anche non credenti, e anche in questi giorni di aspre tensioni e polemiche si sta vedendo un inedito schierarsi di tanti pensatori, anche laici, in forte sostegno e apprezzamento e stima per questo Papa. È un momento difficile questo per Benedetto XVI, che è diventato bersaglio di critiche da più parti. No, guardi, io vedo in questo anzitutto una linea coerente che questo Papa già da prefetto della congregazione aveva seguito. È la linea di un'assoluta sincerità, trasparenza, fiducia nella forza della verità. Io posso testimoniare che quando nella Commissione Teologica Internazionale che lui presiedeva mi affidò il compito di guidare il gruppo di lavoro che scrisse il documento Memoria e Riconciliazione a sostegno della richiesta di perdono di Giovanni Paolo II, allora Cardinal Ratzinger non solo mi diede piena fiducia, ma era profondamente convinto della necessità di fare sempre verità e chiarezza sulle questioni anche più controverse, perché la verità ci fa liberi, ce lo dice Gesù. La sua azione nel campo specifico di questi temi legati alla pedofilia è stata un'azione di assoluta trasparenza, coraggio, decisione, che suscita ammirazione in molti anche non credenti, che dunque mi sembra non motivi, anzi renda assolutamente ingiuste le critiche che gli sono rivolte, quasi che egli volesse coprire qualcosa. Siamo di fronte a un'azione esattamente opposta. Questo Papa sta scoprendo cose che casomai nel passato, per mentalità diffusa, ahimè, tuttora oggi diffusa nella società, venivano coperte, che invece vanno portate alla luce proprio perché non succedono più. Cristiani perseguitati, il dramma dimenticato. Un'inchiesta di René Guitton evidenzia una realtà drammatica. Sentiamolo. Ci sono diversi tipi di persecuzione, potremmo parlare di una persecuzione soft, discriminazioni sul luogo di lavoro, sul modo di vestire, sulla possibilità di costruire chiese, oppure c'è una persecuzione che tocca individui, ad esempio assassini mirati verso i cristiani, cose che avvengono in Egitto, in Iraq, in Pakistan. Una terza tipologia invece sono quelle persecuzioni che avvengono su scala più ampia, dei veri e propri massacri di cristiani, come sono successe in Nigeria, in India, nello stato dell'Orissa, in Sud meridionale, dove ad esempio la polizia interviene molto di rado. Ecco, c'è un ventaglio molto ampio, molto diverso, fino anche addirittura a colpire le stesse idee. In Malaysia, per esempio, i cristiani non hanno il diritto di chiamare Dio con il nome di Allah. E che cosa si può fare per fronteggiare questa situazione? Ci sono diverse possibilità di intervento. Certamente il Vaticano ha la sua rete diplomatica, ma è difficile intervenire a livello di politica interna di uno Stato. Ad esempio per l'Italia è arduo intervenire all'interno del sistema del paese, di un paese come l'Iraq, ad esempio, in difesa dei cristiani. Ci sono da una parte diverse associazioni internazionali, posso citare Pax Christi, che si adoperano in favore dei cristiani perseguitati. I paesi europei hanno concesso ai cristiani iracheni una serie di permessi d'ingresso proprio in quanto perseguitati per motivi religiosi. Certo, bisogna attuare una politica più ampia, più globale, soprattutto a livello di educazione, perché va combattuto questo spirito di chiusura, questo oscurantismo mentale, e anche in termini di scambi commerciali con paesi dove i cristiani vengono perseguitati si può porre il problema della protezione di queste minoranze anche all'interno di scambi e di aiuti economici. Ora c'è Don Willy Volonté, ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Abbiamo due occasioni per riflettere oggi: il tempo che per i credenti è segnato dalla Pasqua e l'ostensione in queste settimane della Sindone a Torino. Il protagonista di questi due eventi è il medesimo, Gesù Cristo, con quella che fu la sua vera risurrezione nel corpo. Partiamo dalla Sindone, quel telo di lino custodito nel Duomo di Torino, protagonista di una storia colma di suggestivi misteri. È il telo più venerato nel mondo, essendo quello che i credenti ritengono abbia avvolto 2000 anni fa il corpo di Gesù deposto dalla croce. Alcuni dicono che sia un falso prodotto nel Medioevo, ma ormai è quasi confermato che quella è un'ipotesi superata, dopo che decine di scienziati si sono quasi accaniti a studiare la Sindone millimetro per millimetro. Allora, come si è formata quell'immagine sul telo sindonico? Un'esplosione istantanea di luce e di calore ha lasciato le tracce indelebili di quell'uomo crocifisso sul telo di lino. Se si leggono attentamente i racconti evangelici della risurrezione, si noterà che questi calzano come un guanto con i dati presenti sulla Sindone: le ferite, la flagellazione, la corona di spine, il colpo di lancia al costato inusuale nel rituale della crocifissione. Quando l'apostolo Giovanni, dice il Vangelo, entrò nel sepolcro di Cristo, lasciato vuoto, constatò l'accaduto e credette. Il corpo di Gesù non c'era più e le bende che avvolgevano il lenzuolo sindonico erano distese, afflosciate, come se il corpo fosse uscito senza scompaginare niente di quell'involucro. Per questo i credenti ancora oggi ripetono: sì, Cristo è veramente risorto, e allora c'è anche la certezza che tutta la vita umana possa risorgere.